L'Italia vista dallo spazio di Achille Corea e Fabrizio Intonti. Salve a tutti da Achille Corea, buon pomeriggio se state ascoltando la diretta, buonasera se state ascoltando la replica delle 20:30 e buon qualsiasi momento della giornata voi abbiate scelto, se state ascoltando il podcast o in streaming on demand sul sito Radio 24. Oggi è l'ultima puntata, non voglio che nessuno si senta trascurato perché oggi chiudiamo la nostra avventura che si chiama L'Italia vista dallo spazio. Abbiamo iniziato 5 settimane fa e per 25 giorni, questo è il 25, siamo venuti qui a cercare cose da salvare dell'Italia di oggi e di ieri, simboli di quello che l'Italia è, ma soprattutto che l'Italia, di quello che l'Italia vorrebbe essere. Oggi è l'ultima puntata, abbiamo già assegnato i 24 posti, però io vi chiedo di partecipare lo stesso con noi alle scelte dell'ultimo momento. Sapete, partire per lo spazio, poi in fondo per noi italiani è un po' come partire per una vacanza, c'è sempre il tentativo di infilare una cosa in valigia, di portare qualcosa come bagaglio a mano, di mettersi, che ne so, due maglioni sotto la giacca, insomma uno più cose porta meglio è. Quindi adesso io vi leggerò l'elenco delle 24 cose venute fuori dalla nostra trasmissione e voi potete chiamarci all'800 24 0024 per vedere se riusciamo a metterci qualcos'altro, se c'è qualcosa che secondo voi manca ed è assolutamente necessario portare nello spazio e rappresentanza dell'Italia. Intanto vi leggo l'elenco nell'ordine con cui abbiamo proceduto, nell'ordine di assegnazione, quindi non di importanza. Nella nostra astronave abbiamo messo una teglia di parmigiana di melanzane, Alex Zanardi, un CD con il rumore del motore della 500, il DVD di Amarcord di Fellini, una parrucca alla Branduardi, per insomma rappresentare la nostra, il nostro disordine creativo, una copia della Divina Commedia, la pizza, un centrotavola, una scarpa da donna, la scena di Totò e Peppino con il vigile milanese, l'MP3 di Io non mi sento italiano di Gaber, la stecca di un biliardino, una cartolina del deserto di Piscinas in Sardegna, Filippo Tim, una targhetta con scritto essere superstiziosi ed ignoranti ma non esserlo porta sfortuna, una bottiglia di chinotto, Emma Bonino, la frase fatta all'Italia bisogna fare gli italiani, che è una frase fatta comunque, quindi mi ero sbagliato relativamente, la camicia rossa dei Garibaldini, la camicia gialla di Tex Willer, il cacao meravigliao di Indietro Tutta, un bidet e un calendario del 1982. Sono 23, ma anche il 24esimo posto, che è quello che dobbiamo ancora assegnare. Posto numero 24, in attesa di assegnazione. Ieri vi abbiamo chiesto un personaggio immaginario italiano, era anche un modo per cercare di recuperare alcuni personaggi venuti fuori nelle puntate sul film, sulla trasmissione televisiva, sui libri, infatti avete detto Brancaleone, Fantozzi, Alan Ford del gruppo TNT, però ve lo dico, è stata una vittoria insomma consistente dal punto di vista numerico, portiamo il burattino più famoso del mondo, portiamo Pinocchio. Posto numero 24, assegnato. Italia sì, Italia no, Italia boom, la strage è punita, puoi dir di sì, puoi dir di no, ma questa è la vita. 800 24 0024 per cercare di aggiungere qualcosa a questa nostra lista, cercare di infilare all'ultimo momento qualcosa nella nostra astronave o per commentarla insieme a noi come faremo con i nostri ospiti. Aspettiamo i vostri suggerimenti e intanto insomma questo però è l'elenco, questo è il risultato. A me piace vederli come tanti oggetti, tanti simboli messi ognuno nella sua nel suo piccolo scompartimento. So che Fabrizio Intonti, che ha un'immagine più da Calvino, preferisce vederli come roba confusamente dentro un baule che ci permetterà di partire verso la luna a cavalcioni di questa cassapanca. Insomma, immaginateli un po' come volete, sono qui e ne vorrei parlare con voi, ma anche con i nostri ospiti. Il primo ospite è il presidente dell'Eurispes, l'Istituto di Studi Politici, Economici e Sociali, Gianmaria Fara, benvenuto. Buonasera, buonasera a tutti. Intanto grazie perché il nostro chiaramente è un gioco, cioè, adesso io lo dico con la vergogna di chi dice una cosa scontata, non c'è assolutamente nessuna pretesa di completezza o di diciamo accuratezza in questa scelta, sono scelte venute con i nostri ascoltatori, proposte, dibattiti che abbiamo fatto nella trasmissione, però io qualcosa dell'Italia ce la vedo, non so, lei che con la prima domanda è che impressione ha da questo elenco? Ma intanto vorrei affermare un fatto, che i sociologi non devono per forza essere seriosi, e poi che voi avete utilizzato uno strumento che secondo me è molto efficace, che è quello dell'ironia, e come dicevano i latini, ridendo castigat mores, e perché poi voi alla fine avete fatto una fotografia, una serie di fotografie dell'Italia con i suoi tic, i suoi vizi, i suoi difetti, i suoi pregi, che è estremamente interessante anche dal punto di vista sociologico, quindi non mi butterei troppo giù, ecco, se fossi in voi. No, ma però fa parte dell'ironia, cioè potremmo anche mettere la fanfara e tutto quanto, ma allora intanto grazie. No, e all'inizio di questo gioco io avevo un timore, che poi devo dire è passato subito, cioè che fossimo in una fase in cui, l'avevo anche detto nella prima puntata, le tentazioni più forti fossero buttare tutto o portare tutto. Mm-hmm. E quindi era proprio questo esercizio di scegliere una cosa per categoria, che noi invece abbiamo trovato, diciamo, una certa rispondenza nel avere una certa rispondenza nel nostro pubblico. C'è voglia comunque di dire questo lo portiamo, questo non lo portiamo? C'è voglia di vedere l'Italia in un modo diverso da quello che vediamo quotidianamente? È un'impressione che ha anche lei? Sì, assolutamente. Io farei un'altra riflessione. Voi avete individuato tutta una serie di cose, di personaggi da portare nello spazio, però potevano essere ognuno dei personaggi poteva avere 1, 10, 100 sostituti, il che la dice lunga sulla ricchezza del nostro paese, sulle sue chance, sulle sue possibilità. Avevamo di fronte, c'erano di fronte moltissime possibili alternative, una migliore dell'altra. Questo per dire che il paese è molto più ricco di quello che qualche volta noi stessi affermiamo, che è un paese che può dare molto, che ha grandi potenzialità. Io l'ho letta in questa maniera. E anche l'idea che la ricerca di fondo poi degli italiani sia una ricerca di senso, una ricerca di orientamento, con tanta voglia di fare tante cose. Il problema è come riuscire a farle. Quello è un problema vero, magari cercheremo di come prossima missione. Ma non dipende da voi, non dipende da voi neanche dagli italiani in buona parte. Ecco. Un paio di riflessioni che volevo fare con lei. La prima è che c'è tanta nostalgia in questo, sì, quadro, soprattutto quando siamo andati su riferimenti culturali, libri, sì, film. Sì, sì. Cioè la vittoria di Amarcord nei film è anche quasi troppo simbolica. Siamo un popolo faccio questa osservazione, riguarda anche ascoltatori giovani. Io ho avuto ascoltatori di 27-28 anni che chiamavano per votare trasmissioni televisive dell'85. Siamo un popolo di nostalgici anche da giovani? Ma certamente, specialmente quando la nostalgia è indirizzata verso cose che hanno un senso e che hanno un valore. Io mi sorprendo, per esempio, quando seguo programmi o trasmissioni all'interno dei quali appaiono per esempio complessi che appartengono alla mia generazione, dall'Equipe 84 ai Nomadi ai New Trolls, e vedo la platea, una platea di giovani giovanissimi, cantare le canzoni che cantavamo noi a 16, 17, 18 anni. Quindi, si ha nostalgia delle cose buone, dei messaggi chiari, semplici, anche puliti. La nostalgia non è un difetto, secondo me la nostalgia è l'esercizio quotidiano della memoria e si ricorda ciò che vale la pena di ricordare. Io poi sono particolarmente felice che sia stato scelto il 1982 come anno, da portare nello spazio, perché nel 1982 è nato l'Eurispes, quindi abbiamo fatto 30 anni quest'anno. Evidentemente l'anno era un anno buono, insomma, era un anno che valeva la pena, sul quale valeva la pena di lavorare. L'ultima cosa che le chiedo, un'altra osservazione. Noi abbiamo visto che la politica è rimasta un po' fuori da queste scelte, tranne per, poi ne parlerò, un piccolo gruppo di ascoltatori che continuamente volevano usare l'astronave per liberarsi di una certa categoria professionale. Facilmente. Ci sarebbe voluta un'astronave enorme. Intuibile. Ma la politica è rientrata alla grande nella puntata sulle donne, per cui ci sono stati diversi voti e citazioni per politiche, non solo Emma Bonino, anche la Fino Chiaro, qualcuno ha detto anche la Carfagna. Insomma, le donne però in politica sono tornate alla grande. Come lo possiamo leggere questo segno? Ma io lo leggerei in termini positivi, insomma, una sorta di piccola rivincita delle donne che sono state nel corso degli anni emarginate, messe da parte. E le donne che sono in politica dimostrano di avere personalità, di avere grinta, di avere una cosa che di solito si attribuisce agli uomini. E questo evidentemente produce una buona immagine e dà il senso che possa esserci anche uno spazio maggiore per l'intelligenza e l'impegno delle donne. Le faccio l'ultimissima domanda secca, quella che facciamo agli ascoltatori. Manca qualcosa? Mancano tante cose, però l'elenco è soddisfacente, completo e appetibile. Va bene, allora io ringrazio Gian Maria Fara, presidente dell'Eurispes, per essere stato con noi. Grazie a voi. È stato un po' un piccolo viaggio nell'Italia, nel tempo e nello spazio, per questo insomma la sottolineiamo con la musica di Bianco, Rosso e Verdone. È un viaggio che abbiamo fatto grazie a voi. Io vi ricordo per quest'ultima mezz'ora meno le possibilità che avete di parlare con noi su Twitter, l'hashtag è Cancelletto dallo Spazio, su Facebook abbiamo una pagina che si chiama L'Italia vista dallo spazio, l'SMS lo sapete meglio di me secondo me, 349-238-6666 e l'800240024. Giuseppe da Rimini, benvenuto. Buongiorno. Che cosa manca nel nostro elenco? Il canarino sopra la finestra. Ma è una citazione di Toto Cutugno? Beh, è usato come sinonimo di nazional popolare proprio da Toto Cutugno, perché proprio calza benissimo sull'italianità. Io non vorrei che il canarino nello spazio facesse la fine della cagnetta laica, che sarebbe triste, però magari mandiamo una foto. Grazie a Giuseppe. Alberto da Modena, benvenuto. Buonasera. Io ho sentito l'elencazione rapidamente perché sono in macchina, mi è venuto in automatico in mente Alberto Sordi quando sul piatto di spaghetti dice io vi distruggo. Erano maccheroni, qui a Roma so che ci tengono, erano i maccheroni. Che sia significativo. Sì. Grazie anche Alberto. Sì, da Modena, che questo salverebbe, diciamo, la pasta e una scena di un film, un comico, un personaggio. 800240024. Sì, stasera sono qui per dire al mondo addio, Italia amore mio. Bentornati su All'Italia vista dallo spazio su Radio 24. Questa è Italia amore mio, Pupo, Emanuele Filiberto e quell'altro, perché all'epoca nessuno si ricordava come si chiamasse, invece no, si chiama Luca Canonici. Ho messo questo pezzo perché nella puntata sulla canzone italiana sono arrivati molti voti per canzoni che parlavano dell'Italia. Io non mi sento italiano di Gaber, che ha vinto, Aida di Rino Gaetano, Viva l'Italia di De Gregori, ma nessuno ha votato questa canzone e io l'ho trovato significativo perché c'è stata tanta nostalgia, c'è stata tanta voglia di descrivere eccetera, ma c'è stata anche tanta voglia di ricordarsi delle cose e dire no, questo no. Cioè, ed è bello secondo me, è un esercizio utile, è un esercizio spirituale che in momenti di crisi bisogna fare, bisogna ricordarsi tutto, anche con nostalgia, come diceva prima il presidente dell'Eurispes, però anche dire no, questo no, ma non con cattiveria, con spirito olimpico. Sono rimasti fuori da questa astronave delle cose incredibili, leggo degli sms al 349-238-6666, il pallone da calcio, dice Francesco, giusto, e Massimo aggiunge niente calcio, tra le poche cose che unisce gli italiani. È vero, nella puntata dello sport in cui ha vinto Alex Zanardi, che però se permettete è una scelta insomma di un certo livello e che dice molto, ci sono state molte citazioni per il calcio, ma forse anche un po' la voglia di dire che in Italia ci sono altri sport e altre passioni. Vorrei sentire Emilia da Firenze all'800240024. Benvenuta. Buonasera. Cosa abbiamo dimenticato, Emilia? Ma io, secondo me, il vino. Io appunto ho 56 anni, ho viaggiato abbastanza e credo che la cosa che più... Io vengo da Firenze, quindi quando io dicevo venivo da Firenze, la cosa, questo lo entusiasmava molto, ossia, e soprattutto era il vino, insomma. Ci chiedevano consigli, mi hanno chiesto consigli sul vino. Io sono nata nel Chianti e quindi insomma... Sì, problema. Sì, sì. La ringrazio Emilia, è giusto. Mi ricorda un'altra puntata veramente combattuta, che poi la citiamo spesso come esempio, la puntata in cui nello scontro tra titani, tra il caffè e il vino, vinse il chinotto. E niente, sono cose che fanno male anche a volte a chi rimane per terra sconfitto, ma sportivamente bisogna accettare, insomma, il responso delle urne virtuali e starci, diciamo così. E abbiamo un ospite in questa seconda parte della trasmissione, che è stato il primo ospite che ci è venuto in mente, ve lo dico, ma ce lo siamo tenuti per l'ultima puntata, perché per fare un'astronave ci vuole un astronauta, e quello che abbiamo al telefono è l'astronauta italiano con il record di permanenza nello spazio, Paolo Nespoli, benvenuto. Pronto? Buongiorno Achille, salute a tutti, buongiorno. Forse c'è un po' di ritardo perché finalmente posso dire una frase che sognavo di dire da bambino: in collegamento dalla base di Houston. Sì, sì, in effetti sto parlando da Houston, dal mio ufficio qui non lontano dal Mission Control, dal famoso Houston we have no problem. Allora, Paolo Nespoli ha scritto un libro che devo dire ci ha anche accompagnato durante questo viaggio, che si chiama Dall'alto i problemi sembrano piccoli, e la prima domanda che devo fare, perché veramente la persona a cui la posso fare veramente, è: com'è l'Italia vista dallo spazio? Beh, dipende come uno la guarda, quando la guarda. Devo dire che l'Italia si trova in una posizione invidiabile, 45 gradi di latitudine, non è troppo caldo, non è troppo freddo, è messa col bacino del Mediterraneo attorno, che tempera un pochettino le temperature, alla catena delle Alpi che blocca tutte le cose che arrivano da nord. Insomma, è un paese che anche dallo spazio fa invidia, direi quasi che volando sopra il mondo, guardando lì sopra, forse uno dei posti che uno segna per dire lì voglio andare a vedere cosa c'è. Questo è bello da sentire, e ne approfitto per farle anche la domanda che abbiamo fatto oggi, che stiamo facendo oggi ai nostri ascoltatori. Da questo elenco che cosa manca, insomma, di cosa si sente più la mancanza quando si è così lontani dall'Italia? Devo dire che ci pensavo, e devo essere sincero, non riesco a tirar fuori una cosa singola, perché con più ci penso, con più aggiungo cose, con più poi, tra l'altro devo essere sincero, conoscendo un attimino come sono le navicelle e la disponibilità di posto e di spazio, alla fine tutto questo cozza con la mia, diciamo, realtà quotidiana del fatto che quando vai in orbita ti porti poco o niente perché c'è poco spazio. Quindi mi è venuto in mente di in un certo senso di fare una scansione al computer, di fare una specie di versione digitale di tutto e portarmi tutto, perché sono sicuro che prima o poi mi mancheranno tante cose, insomma. Questo è un trucco d'astronauta, la scansione digitale, ma so, perché leggo che lei è molto appassionato di tecnologia, addirittura usa molto internet dallo spazio per tenersi in contatto, in collegamento, se non ho capito male. Sì, le trasmissioni oggi attraverso l'uso di satelliti sono molto più facili di quelle che erano qualche anno fa, e addirittura sulla stazione spaziale abbiamo un telefono a disposizione, ognuno di noi ha un telefono a disposizione, abbiamo internet, abbiamo posta elettronica, io mi tenevo in contatto con amici, con tutti, insomma, con posta elettronica, con Twitter, addirittura ho pagato dei conti, ho controllato le cose in banca, ho trasferito dei soldi, insomma, fatto le cose che si fanno da casa tutti i giorni. Una bella immagine della quotidianità nello spazio. Prima di salutarla tra poco, le volevo chiedere una cosa. Mi è piaciuto molto l'inizio del libro, in cui lei dice che quando ha iniziato, insomma, il suo percorso, ha scoperto che non era proprio bravo a fare le cose subito, e quindi doveva provare. E visto che secondo me questa è una cosa che ci servirebbe oggi, e che dovremmo forse portare come atteggiamento nello spazio ma anche nella vita, secondo lei, provando, l'Italia ce la farà? Sicuramente se noi mettiamo assieme le nostre risorse, le nostre capacità, si è detto tante volte che alla fine in Italia abbiamo dei picchi di genio, delle capacità veramente nascoste che tiriamo fuori solo in certi momenti. Se riuscissimo a fare diventare queste cose speciali un pochettino più normali, utilizzarle tutti i giorni, metterci d'impegno, di buona volontà, io sono sicuro che sicuramente riusciremo ad uscire da questo buco strano in cui ci troviamo oggi. Ne abbiamo sicuramente le capacità e le possibilità. Certo, non dobbiamo aspettarci che la cosa sia facile, che ci venga subito, che così 3 minuti e si risolve. Dobbiamo lavorare assieme, lavorare bene e lavorare con attenzione e decisione. Bene, io la ringrazio per questo momento di ottimismo, detto da lei che ha raggiunto grandi risultati, che sono andare nello spazio, ma anche, se posso permettermi, essere citato in una storia di Topolino, che è una cosa che io invidio tantissimo. Grazie a Paolo Nespoli per essere stato con noi. Ricordo il suo libro, Dall'alto i problemi sembrano piccoli. Buon lavoro lì a Houston. Un saluto da tutti da Houston, a presto. L'amore è un astronauta, la vita è un astronauta. Io direi che, per quanto virtuali noi possiamo essere dal punto di vista tecnico-logistico, siamo coperti. Abbiamo l'astronauta Paolo Nespoli, Alex Zanardi che al telefono ci ha detto non c'è problema, la guido io. Cioè, io da quel punto lì mi sento abbastanza sicuro. Poi bisogna vedere il ritorno. Ecco, un SMS che mi è piaciuto molto era, adesso lo devo ritrovare, Igino, che ha detto: nel bagaglio a mano ci metterei un biglietto di ritorno perché è giusto tornare in questo meraviglioso paese. E questo, vabbè, può essere veramente una buona osservazione. Ci abbiamo tempo per un ascoltatore, due, devono essere velocissimi. Cristiana da Pordenone, pronto? Buongiorno a lei. Che cosa proviamo a infilare all'ultimo momento? Io ho scelto qualcosa di piccolissimo ma che dà un grandissimo risultato, un chicco di grano. Perché? Perché il chicco di grano ha 3 significati. Il primo, da un chicco di grano nasce il grano, si fa il pane, si fa la pasta, e la pasta e il grano in Italia è importante. Il secondo, la devo pressare, il secondo. E poi, cioè pane, pasta con un chicco di grano. E poi la bellezza di un campo di grano. Proveremo anche a esportare la nostra agricoltura nello spazio. Questo non ci avevo pensato, però può essere un tentativo. Io cito, perché siamo arrivati alla fine, mi sa, chiudiamo. Cito scelte. Falcone Borsellino, grazie a Claudio de Bologna. L'arte italiana, ha detto Luciano. Qualcuno diceva che l'elenco un po' senza né capo né coda servirebbe una descrizione, magari ti amo di un Umberto Tozzi. È un'opinione, perché no? A questo punto io devo ringraziare tutti, devo ringraziare i nostri tecnici Chiappini e Rocchetti, devo ringraziare Antonella Migliaccio per come ha lavorato in queste 5 settimane, devo ringraziare Radio 24 per avermi dato questo programma e devo ringraziare voi che avete ascoltato, mandato SMS, telefonato, scritto su Twitter, scritto su Facebook, ovunque. Grazie a tutti da Achille Corea, alla prossima dallo spazio.